Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E bentornati all'ascolto, un caro saluto anche da Gloria Guerrera, la nostra redattrice, Alessandro Chiappini, il nostro regista. Beh, qualche anno fa Totò Cotugno vinse a Sanremo con una canzone in cui, tra gli altri auri versi, si cantava un'Italia con sempre meno suore. E noi diamo il benvenuto a Sor Maria Rita Falco. Grazie. Docente di religione al Liceo Kennedy di Roma, è una suora figlia di Nostra Signora della Misericordia, una istituzione di Savona, credo. Sì, l'istituto è sorto proprio a Savona. È presente in Italia e all'estero e, diciamo così, per anticipare, visto che stiamo parlando con la sorella cieca della televisione, come la radio, che Suor Maria Falco non è un'italiana di ieri, ma un'italiana di oggi. Sì. Quindi in quest'Italia anche con le suore, Suor Maria Rita è la prima suora che partecipa al nostro programma in... Mamma mia! In 3 anni. E noi abbiamo un cielo molto provvisorio da colorare partendo da una massima. E da dove partiamo, visto che lei la guida oggi? La prima idea che mi è venuta per partire è stato il titolo del vostro programma, Il cielo in una frase, che trovo un titolo geniale, molto, molto bello. E un po' perché così c'è l'eco di una canzone famosa di Gino Paoli, Il cielo in una stanza, io appunto sono ligure, un po' anche di conterraneità gioca, e però questa frase, Il cielo in una frase, mi piace molto per questa idea che dà della irruzione in uno spazio, in poche parole, di qualche cosa di molto grande. E l'irruzione di qualcosa di sproporzionato in qualcosa di molto piccolo, e nello stesso tempo la sorpresa che a volte il piccolo riesca a contenere il grande. Ecco. E quindi mi sarebbe piaciuto partire proprio, diciamo, da questa frase, il cielo in una frase, che anche mi solleticava per alcuni così rimandi prettamente religiosi. Mi faceva venire in mente la frase di Gerolamo, il traduttore della Bibbia, diceva: in una sola parola della scrittura è contenuto tutto il Cristo. E poi anche forse un po' natalizia come espressione, mi richiamava il cosmo ricapitolato nel verbo, il verbo che si fa carne. Dunque mi sembrava che questa suggestione del cielo in una frase fosse una suggestione molto urgente anche per noi che viviamo nelle nostre giornate un grande affastellamento di frasi. Anche adesso qui stiamo dicendo molte frasi e a volte siamo forse anche un po' troppo sazi di frasi, obesi di frasi, ed è difficile trovare la frase in cui noi possiamo riconoscere il nostro cielo, cioè quella frase che invece ci apre, ci mette in contatto con noi stessi, con i nostri desideri, anche con la nostra verità scomoda. Ecco, ma quel cielo che non ci lascia marcire e ci apre appunto anche a delle relazioni. E quindi, insomma, l'idea era proprio questa, ecco, di partire da... Poi mi sembrava un gioco sporco quella di approfittare così della... E allora mi è venuta in mente un'altra frase tratta dal Moby Dick di Melville, un testo che io ho molto amato, questo non è così importante, ma è stata non soltanto l'argomento della mia tesi di laurea, ma è stato un'esperienza, è un libro dalla cui lettura non credo non si possa uscire indenni. E la frase che ho scelto è forse, come si dice, vorrebbe essere un po' l'eco in ogni modo di questo Il cielo in una frase, e forse se la volessi così un po' riassumere si potrebbe dire l'oceano in una lacrima, ed è una frase tratta da uno degli ultimi capitoli di questo testo, esattamente al capitolo 132. È l'ultimo capitolo che precede la descrizione delle ultime tre giornate di caccia e poi la tragedia del peco affondato e della morte di tutti. E in questo capitolo c'è come una sorta di pausa, di sospensione. Tutto il libro è teso appunto per 131 capitoli a questa unica meta, che è l'inseguire, il trovare la balena bianca e distruggerla, l'ucciderla. E invece in questo capitolo c'è appunto una sospensione. E il protagonista, diciamo, il capitano Achab, appunto con questo nome biblico ricco di tante risonanze, il personaggio malvagio per eccellenza, così ossessionato da questa ricerca della balena, monomaniacale potremmo dire, in questo ha un momento, diciamo, di intenerimento, forse non è la parola giusta, ma anche lui un momento di sospensione, un momento in cui la natura e tutto quanto lo circonda per un attimo non gli è così matrigna, non gli è così ostile, e questo sentirsi per un momento amalgamato e fuso nel paesaggio circostante gli fa sciogliere qualche cosa dentro. E allora non so se posso leggere certo. Un pezzetto proprio anche prima di questa frase, perché impedito e stiracchiato, fatto nocchioso e ritorto dalle rughe, selvaggiamente risoluto e ostinato, con gli occhi vividi come carboni tuttora ardenti nelle ceneri della rovina, l'inflessibile Achab uscì nella limpidezza del mattino, alzando l'elmo frantumato della sua fronte alla fronte celeste della bella fanciulla, che sarebbe il mare, descritto pochi attimi prima nei termini di una donna. Traversando lentamente la coperta del portello, Achab si piegò alla banda e guardò come l'ombra dentro l'acqua affondava e affondava al suo sguardo, quanto più lui si sforzava di penetrarne la profondità. Ma i dolci aromi di quell'aria incantata parvero alla fine dissipare per un attimo l'oggetto canceroso nel suo cuore. Quell'aria beata, felice, quel cielo ammaliatore lo afferrarono infine carezzevoli. La terra matrigna, da tanto tempo crudele e repulsiva, gettava ora braccia appassionate intorno al suo collo ostinato e pareva singhiozzare su di lui dalla gioia, come su uno che, per quanto indurito e peccatore, ella trovasse ancora nel suo cuore la forza di salvare e benedire. E qui viene la nostra frase. Di sotto al cappello calcato, una lacrima cadde nel mare dall'occhio di Achab. Tutto il Pacifico non conteneva tante ricchezze che valessero quella misera goccia. È una frase che a me toglie quasi le parole, forse non avrei dovuto sceglierla, perché adesso, dopo questo, rimane difficile aggiungere qualcosa. E solo mi pare che anche questa frase, come quella del vostro programma, dia, come si dice, un'indicazione così di attenzione a noi per la nostra vita. E mi sembra che il cogliere così in questa lacrima, che è il momento di fragilità massima di un uomo, come Achab, poi soprattutto, ma anche di ciascuno di noi, cogliere in questo momento di massima fragilità il distillato dell'umanità, o la migliore, la più sincera amplificazione dell'umanità e della dignità, mi sembra, come si dice, appunto, una cosa impagabile, una cosa che, come dice in questo testo, non apprezzo. Tutti i tesori nascosti nel Pacifico non valgono questa lacrima. E mi sembrava bello, ecco, come dire, portarla perché è una frase che, insieme a questo testo, a questo intero testo, mi ritorna, mi segna, ecco. E così mi sembra anche così, anche per alleggerire, si sentono tanti che parlano di vendere o di comprare la felicità. Non si è ancora sentito nessuno che abbia pensato a dare un prezzo, un valore, a stimare una lacrima. E invece questo è forse uno dei momenti più autentici della vita di una persona, E dunque anche un grande spazio, trovo, di speranza, di possibilità di contatto, anche se il paese delle lacrime, ha scritto qualcuno, è un paese misterioso, ma e riuscire ad accostarci sì, è, credo, un'esperienza di, o ad attraversarlo, ecco, essere compagnia, credo sia un'esperienza importante. Suor Maria Rita Falco, Il paese delle lacrime è un paese misterioso, insieme all'autore Moby Dick ci diciamo tutto l'Oceano Pacifico non contiene abbastanza ricchezze che valgano il peso, la ricchezza di una sola lacrima. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. E di Suor Maria Falco, la nostra guida questa settimana. Suor Maria Rita, chiedo scusa, insegna religione a Roma, liceo Kennedy. È una religiosa delle figlie di Nostra Signora della Misericordia. Dice, se volete proprio sapere perché l'abbiamo chiamato, perché ha come qualifica quella di essere una nostra ascoltatrice. È vero. Questo, diciamo, dovrebbe suggerire a qualunque nostro ascoltatore o ascoltatrice di farci sapere se magari gradisce o accetterebbe di venire a raccontarci quale sia il suo cielo dentro una frase. La prima era molto bella, la frase del Melville, autore di Moby Dick, qualche istante prima della grande tragedia che conclude il libro, e una lacrima scende dal volto del capitano Ahab e lo scrittore commenta: tutto l'Oceano Pacifico non conteneva abbastanza ricchezze che valessero quella lacrima. Da dove ripartiamo questa volta? Adesso invece vorrei ripartire da una frase della mia fondatrice, della fondatrice del nostro istituto, Santa Giuseppa Rossello, che suona molto diversa, molto distante, sia, diciamo, nella qualità letteraria che forse anche nella solarità del tono. E la frase è questa, dice: siate come le api, cogliete il meglio in chi vi sta accanto. E dunque, tanto contestualizzo anche un po' questa, che appunto sembra un po' più zuccherosa, si pensa alle api, al miele, a una cosa un po' così edulcorata. Beh, una bella frase da suora. Sì, diciamo. È una bella frase da suora, appunto. Però alla mia fondatrice piaceva parlare per immagini, tant'è che il motto dell'istituto è praticamente una traduzione per immagini dell'Oret Labora Benedettino, e lei l'ha tradotto Cuore a Dio, mani al lavoro, e quindi siamo un po' sulla stessa linea. Però era una donna forte, aveva queste frasi così, appunto, però una donna forte, una donna che ha lottato, che ha aperto un istituto religioso nei tempi in cui venivano soppressi, perché era la prima metà 1837, anzi proprio nel 1856 l'istituto non è stato soppresso perché il registro del bilancio era in ordine, i conti tornavano, e dunque... Una donna che è molto concreta, per cui diciamo che l'identificazione Cristo è prossimo era un dato di fatto, un'assunzione, diciamo, da non discutere, per cui questo cuore a Dio ha rivolto le mani verso le ragazze di strada della città di Savona, che era una città portuale, e quindi si può immaginare, e all'educazione delle donne, è stata, le prime scuole pubbliche femminili sono state aperte da lei. E poi alle schiave egiziane, alle schiave del mercato egiziane, e poi all'accompagnamento degli emigranti che partivano in quegli anni, nel 1875 precisamente, verso l'Argentina. Questa frase, appunto, siate come le api, invece è una frase che è stata pronunciata, riportata dalle sue consorelle, pronunciata rivolta direttamente alle sue suore. E gli emigranti, forse bisogna ricordare che partivano in Argentina già venduti al fazendeiro, presso cui andavano a lavorare, sì. Insomma, cioè, in realtà certe volte abbiamo parlato anche recentemente del caporalato in provincia di Foggia, quanto sia labile la memoria del torto subito, sì, e come diventa facile da figlio o nipote di chi è stato venduto diventare negriero di chi è appena appena più povero di te. Infatti, diciamo che Spesso invece la memoria del conservata, anche in un istituto religioso che ha attraversato questa storia, è molto utile per tenere i piedi per terra, ecco, diciamo così, o non credersi chissà che cosa, perché nel giro di un centinaio, 150 anni forse, le cose sono così cambiate. E, però appunto questa frase era rivolta principalmente alle sue suore, perché ci teneva che costruissero una buona vita comunitaria, ci teneva forse tanto quanto l'impegno rivolto nel sociale, che appunto è stato piuttosto intenso, soprattutto in quegli anni nel primo cinquantennio della fondazione. E l'ho scelta perché, al di là così un po' dell'apparenza appunto di una frase da suora, mi sembra che potrebbe anche essere ritradotta forse in termini più odierni nel riscoprire dei ritmi di vita più sostenibili, cioè dei ritmi di vita che consentano quella capacità di fermarsi, giusto come fa un'ape su un fiore, accogliere quel meglio che c'è nell'altro. E poi, se uno guarda bene le parole, quando uno dice cogliere, dice anche che sceglie, e se sceglie distingue, e se distingue giudica. E per sapere che qualcosa è meglio bisogna vedere che a fianco c'è del peggio. E però appunto è soltanto partendo dal meglio che ciascuno di noi ha, è soltanto partendo da questo meglio, per poco che ci possa sembrare, che si può partire a costruire qualche cosa. E penso che anche questo sia un suggerimento che valga non solo per una comunità di suore, forse per una comunità di suore vale tanto più perché le suore non si scelgono, si trovano insieme, però vedo che anche quando ci si sceglie le cose a volte non funzionano proprio come si desidererebbe. E quindi questa capacità di puntare sul meglio, non per nascondere, diciamo, le cose che non vanno, sia in ogni caso importante. E non so se ci vogliamo riagganciare alla prima parte della trasmissione, forse il meglio che ci può dare una persona o noi stessi, perché a volte è solo veramente una lacrima, però appunto se sappiamo che in questa lacrima ci sta tutto un oceano, ecco, forse vale la pena di riconoscere e di accogliere anche questo meglio. Quindi personalmente è una frase, un invito, ecco, che mi è servito in molte situazioni un po' asfittiche, un po' anguste, cioè che ha aperto degli spazi, ha aperto dei cieli nuovi, ecco, mi ha aiutato a uscire da delle impasse. E nello stesso tempo, quando le cose vanno bene, è comunque un invito che predispone all'incontro, perché dice anche non aspettare che sia sempre l'altro a fare il primo passo, muoviti, mostra interesse, avvicinati, guarda, ecco, anche a volte una curiosità può suscitare nell'altro una risposta, ecco. L'indifferenza è forse uno dei nostri mali più grandi, e forse anche è il male che alimenta poi la nostra stessa solitudine, perché paghiamo noi stessi con la moneta con cui paghiamo gli altri. E quindi insomma è una frase appunto un po' diversa da prima, però no, vabbè, ma diciamo, io sono molto impressionato da questa specie di glossa ridanciana con cui raccontiamo la vita, perché come antropologo mi diverto molto sul finire dell'anno e soprattutto la sera dell'Epifania, vedere come si riesca a passare facilmente dalla stella di Betlemme a quella del cielo magico, perché appena passato Natale si scatena la mania degli oroscopi e, diciamo, appena scocca il Capodanno nasce una dea chiamata lotteria. Il risultato è che siamo tutti quanti convinti che la vita possa essere innanzitutto prevedibile e secondo che la vita possa essere raccontata in termini di fortuna. In realtà, diciamo così, quella prevedibilità e quella fortuna non esistono, o se esistono, esistono solo come conseguenza possibile una serie di azioni, e per affrontare la vita tutti i giorni Le stelle stanno a guardare e la dea Fortuna prende vacanza, insomma, la dea Lotteria, diciamo così, al massimo si fa sentire il mercoledì e sabato, visto che è scattata da qualche anno la mania del Super Enalotto. Mm. Però in mezzo c'è anche un altro racconto, meno ridanciano, che magari è anche meno chiassoso, ma che può essere estremamente, diciamo così, allegro, perché le lacrime possono essere lacrime di gioia, certo, sì. O possono essere estremamente arricchenti, perché la fortuna, magari la persona che ti sta a fianco e che in quel momento ti insegna qualcosa che ti resta per tutta la vita, spesso, cioè, solamente in età molto adulta, mi è capitato di dover riflettere sul passato, più o meno credo che sia questo che voleva dire. Sì, e questa è un'altra, diciamo, se vuoi, un'altra lettura del cogliere il meglio. È vero, anche nella nostra stessa vita a volte noi tralasciamo del nostro passato, tralasciamo di cogliere questo meglio che ci fa apprezzare di più la vita per quello che è molto meglio, cioè la realtà supera poi molto, molto di più la fantasia, nel senso della ricchezza, dello spessore, ecco, della realtà che possiamo vivere. Invece quello che diceva lei poco fa, questo sperare nella fortuna, non so neanche se si possa dire sperare, pensando a qualcosa di prevedibile e a qualcosa che non dipende assolutamente da noi, perché diciamo che quando uno spera ci mette anche del suo, cioè fa anche un investimento affettivo, intellettuale, di interesse, e che poi è quello che dà, diciamo, il gusto alle cose. Credo anche che ci fosse una pubblicità che girava in questo senso, non so più di cosa, che non diceva qualcosa del genere, la vita al gusto che le dai, o non so che cosa fosse che avesse. Però è vero, cioè la vita ha l'interesse che le diamo e ci risponde con, diciamo, il medesimo interesse a seconda dell'investimento, no? Se si può usare questo termine, che facciamo. E pensavo che come importante questo volare, diciamo, per rimanere in questa metafora, no? Verso gli altri, cogliere, come dire, nel formicolio così delle nostre città un po' concitate, le solitudini degli altri, e come appunto una parola possa essere così importante per riempire questa solitudine o sciogliere un nodo. E dunque siate come le api, prendete il meglio da chiunque vi stia vicino, dal vostro prossimo. Così suora Anna Maria Falco in questa seconda parte del nostro cielo. Suora Anna Maria è stata la nostra guida questa settimana, grazie. Grazie, Don Filippo. Grazie a Gloria Guerrera, grazie a Alessandro Chiappini, grazie a voi che continuate a seguirci. Lo ripeto, se desiderate essere invitati a venire a parlare con noi, fatecelo sapere. Noi, come abbiamo fatto con suora Anna Maria, appena abbiamo saputo che è la nostra ascoltatrice, lo faremo certamente anche con voi. D'altronde basta mandare una mail a ilcielo@radio24.it, naturalmente, come tutti sanno. A risentirci.